stazione non li tocco perché sono già tutti posizionati, li toccherebbe fare un casino per disordine e fare. Prendo quelli che ho, diciamo, in giro. Io non so come così, è capito che ho qualcosa da un tranquillo, non è come, ho capito pure noi che sono tutti funzionanti, che non devo fare qualcosa per anche funzionanti, cioè. Hai capito? Perché con lui, diciamo, ci tengo, hai capito, no? Se non facciamo la cosa che non fa gente, ci prega di non toccare, hai capito? Yeah. valutare. Adesso vediamo di impegnarsi per fare questa cosa qua, dai, niente di particolare. Tutto lì, avanti doppio. Ehi, ehi, facciamo sapere a Gigi domani sera quando rientra dal lavoro, perché sai che lui viaggia, quindi disturbarlo mentre lavora non fa. A 9 non c'è problema. E antenne, e antenne, scorre qualche antenna dell'epoca. Io su quelle antenne non ho selezionato nulla ancora, antenne dell'epoca. Sapete che antenne dell'epoca, ma salsa di nuovo. Che buono sinceramente, te devi piantare una Mantova 1, Mantova 5, non è che sia il massimo, ma perché no, potrebbe essere anche un'idea, ma chi è che ce le ha smontate e poi esporle lì? Io personalmente ne ho una solo, cioè la Turbo 2001, ma non è il caso, la di mettere, cioè un fusaglio del genere, qualcosa di più studiato, abbastanza visivo e decorativo oltretutto. No, proprio antenne io personalmente non ne ho. Una cosa, in Maria non c'erano due le recuperate, e io sempre, hai capito, mia, un bicchiere d'acqua, dai, un bicchiere d'acqua, gazzacqua San Martino. Tu vedi che è un ubidò? La guaia, era bruttissima, era. A metterci la palla, ho fatto un continuo alla macchina. E tu la, sì, vedi, la forse lo qui, la chiampetta, la colla, la palla era salita, perché la loro intaccata quando la finì la macchina, non l'ho più trovato. Era bruttina come il gaggio, questo si stava a pennello a come la macchina. Forse non hai capito già che io ho dovuto smontare tutto il cielo per piazzare l'antenna, ma è fatta in un modo particolare, mi ha isolato tutto il cavo con quella gomma praticamente tipo, posso dire, quella morbida, di modo che se si muove il filo non faccia rumore, eccetera, tutto fatto bene, passata, legata, fatta, tutta fatta di lusso, capito? Smontata la parte di dietro, fatta passare bene e via, già aveva fatto poco di lavoro per mettere quell'antenna. Ha smontato tutto il cielo, tutti i montanti di plastica, tutto quanto hanno dovuto smontare. Quanti, Antonio? E io, no, io già ho, dalla mia invece ho dovuto togliere l'antenna della radio e mettere al turbo 2001, dunque il foro era già fatto, dunque ho fatto tutti questi giri, là, già mi è andata bene. Vabbè, ma io l'ho piazzato a centrocapota, tu sai benissimo che a centrocapota ha una maggiore resa. Quello sono pienamente d'accordo, ma per non fargli la rovinare la macchina, l'ho attaccata diciamo alla fine, la parte del cofano, e beh giustamente ha più massa radiante, ed è la cosa migliore. E rispecchia meglio, capito? Quindi avevo deciso di farla così, la verità anche Giulio, ma non è che ti conviene metterla a centrocapota, già se lo stai facendo farlo bene, che non è di più. E così ho fatto, No, comunque tu sei abbastanza bene, anzi abbastanza benissimo, veramente bene. Ma infatti rende un bel, con l'antennino piccolo pure solo in questo periodo, non ne sto mettendo quella grande. Quindi ti puoi immaginare, se metto la grande è ancora meglio. Ascolta, secondo te, con la turbo 2001 che ho io, si può modificare in modo che dia la resa come con la tua antenna? Sì, si può fare, ma devi avere carica di quei centimetri lì. Capisci la turbo 2001, non puoi smontare, mi sa che dovrebbe essere fuso tutto insieme il blocco dove c'è l'avvolgimento. Il mio si apre. Non voglio nella mia, no, non voglio dire cartate, il controllo e poi ti faccio sapere, ma secondo me, perché non me la ricordo, era proprio, sembrava fuso tutto insieme. Ti ripeto, la mia l'ho smontata perché l'ho ingrassata dentro, l'ho tutta pulita, ingrassata, fatta, e poi l'ho richiusa, capito? L'ho messo in grasso di modo che non rompa le palle il fatto che si arrugginisca le cose. Poi ci stavo pensando, sarà possibile modificarla in modo da utilizzare nel tetto di casa, perché in acciaio qui sono abbastanza resistenti e così ti fanno una vita. Qualche modifica in modo da dare le stesse prestazioni per dire di quella che ho io? Si può modificare perché l'antenna turbo mini l'hanno fatta. Dovresti sapere i centimetri, quella piccola che hanno fatto, quella lì, come quella la potresti fare? Invece là, io la mini turbo, sì, l'avevo acquistata io, però l'ho messa in macchina, ho visto che non rendeva assolutamente niente, era anche abbastanza sorda come antenna, e dopo due giorni l'ho restituita a Fusaro e avevo aggiunto, se non sbaglio, 10 euro in più. E avevo acquistato la Turbo 2001, no, ma io intendo modificare, nel senso mettergli dei radiali in modo da utilizzarla sul tetto di casa, ecco, però cercando di dare le migliori prestazioni possibili durante la modifica. Questo sarebbe bello affrontare anche un esperimento del genere, ecco. E quello già si può fare, mi chiede la pompone, se c'ha idee di radiali ma la Gran Prix. Anche e sistemare un po' e sperimentare, vedo, si può anche fare, già glielo dico a vedere, vediamo un po' cosa ne esce fuori, questo dovrebbe sostenere 2000 watt, ma non ci credo. Comunque un 200 watt tranquillo a tubo 2001 già li tiene senza problemi, a voglia. Allora Antonio, l'antenna li tiene, ma il cavo non penso che ce la faccia, nemmeno il piede. Anche quello già è vero, sì, giusto. Vabbè, per quello che utilizzo io, un'ottantina quando ogni tanto attacco già ne tiene più che sufficiente, a voglia. Avanti, Capris. Uno è come queste, come è succedendo, quelli li hanno usato adesso. Benissimo, senza problemi. Perché no, c'è quel numero tipo, qualche scala di una profumata, vabbè. Capito, non mi tocca tante. Antonio, confermi che la radio è buona. Non riesce a passarlo, molto vicino a me. Bisogna sperimentare, dai, almeno passi il tempo e impari qualcosa di nuovo. Però qualche cosa dell'epoca. passato, tutta la passionalità che avevo mai detto, le altre neppure erano appassionato per la Sigma, proprio sono così dei 50 Fiat, facevano una porta con la chiavetta, faceva la figura sua. Purtroppo c'è quello che va a prendere a problemi, capito, cosa che fa da figlio della donna, il mio amico che è il duco di quella donna. Come stava a scrivere? Molto emozionato, sono molto emotivo, tutti dicono che sembra un bullo, non è così, sono molto emotivo in mio invece, e quindi niente, voglio lasciare la roba come capito, questo è l'idea. Iaia, col cantonese, il cantonese non ha parlato nulla, c'è un po' di bianco troppo saggellato, perché se c'è gente che vuole entrare non riesce a riprendere. E io infatti un attimino di bianco e vuole entrare qua, buonasera. Come non lo spingete? Tutta le cibo. Lui che dice la Diana, questo microfono, cane che hanno il passionatico. Ciao a tutti! Pronto? E io pronto, pronto, avanti, chi parla? Buia, ogni tanto mi chiede qualcuno nuovo, avanza, avanza. Avanti Giovanni, buonasera. Ok Giovanni, oggi vi coma, mi ascoltate? Ehi, adesso ascoltiamo Giovanni, lo credo. Ok, chi è l'amico? Avanti, buonasera. Ciao Giovanni, Maracuda, Modulazione Rossi, sei in compagnia mia di Gianni, avanti i capri per Giovanni. Buonasera, saluti quella Capri 2, che si super cordializza, se tu puoi familiare, così si dice sempre. E non so se ci siamo mai modulati, ti metto il cambio Giovanni, sempre la buonasera amico, dai, l'ho copiato qua, Giovanni, occhio di gomma. Me lo voglio mettere io, mi stavo parlando con doppio U, occhio di gomma già mi voglio mettere anche io. Di gomma. Adesso. Fatti revisionare la lingua. Ascolta, occhi di gomma, a che nome strano, dove mi stai modulando? Ma perché nominati voi non ho capito, no? Sto modulando da Usilo. Ah, da Usilo, ecco, infatti, quel nominio di strano li porta solamente in quel paese. Comunque, buonasera, presentatore, per la primiera. Ma mai non ne ha bisogno. Di che cosa? Ah, formaggio! No, no, no, io sono diventato vegetante, vegano, dunque non ne mangio più formaggio. Capri, ti serve formaggio? Il formaggio di Osino è buono quello. Sì, ma se ti siede il muso da Emanuele Romeo, già sull'asse. Mamma, non vuoi bere i minacchi? Ah, sono a fine liquidi. Che lappo a domo? Che lappo a domo? Ho comparato a città mercato. E scusami per prima. Niente, figurati. Si è scaricato il cellulare. L'ho immaginato. Scusate, sto mangiando due noci. L'amico di Usino, avanti. Eia, a me cucca. Eia, ti cucco vero o no? Dieta ti cucciami, dieta ti cucco. Pai da tranquillo. Gianni, tu a Nuverese. Gianni Capello di Enrico ha ritirato con la verità a casa, se lo può per me. Burrumi, su M. Ne capito due l'aglio, là. Loro lo mangia. Ok, già avevo tenendo le case, un peso quasi. Gianni schifo in un'esorto. Ti ha comunque anche Cuni che è quello. E glielo regala il fratello della moglie, il cognato che è pastore. Ah ok, non c'è problema allora. Non so se vuoi altra cosa, sì, già. Saretta già. Ritte, sono zitta, sono usurato, no, non dico. Sono i cui uomini che ci dari, no, che già ne capri due. Ah, io sui nari. Ormai non ho nada sui nari, gusto. Sicuramente lo facciamo parlare con la gente. Capri due, io te lo regalo. Un grande regalo, diciamo. Comunque già, ti faccio l'ennesima domanda. Con che palattino sto modulando adesso? Chi lo sa? Boh, è tanto. Lo sa con cosa stiamo modulando. Il Midland adesso. Ma una corda è un barattolo, con la corda cerata. Si finisce. Con cosa finisce? Con la E. La faglietta. Acce. No, no. Ando. Almeno due. E non che sto attenzione. Anche questa cosa si è impreparato già. Madonna santa. E il capito si è impreparato. Ok, il camino come venendo giù qua, voglio avanti. Sento Giovanni di Osilo, quello che sta avendo il formaggio, avanti. È sicuramente una bambucere, non bestie. Attento Giovanni. Niente, già, non c'è. Comunque, qual è l'apparato che stai utilizzando? Parli due. No. Ok, Giovanni viene a male che non deve aspettare. Ok, perfetto. Allora, c'è uno più lungo, non le stai azzeccando una stasera, capito, tu che mi conosci, ti ho fatto, hai capito le domande, tu gli apparecchi miei li conosci, quindi non mi sono potuto rispondere, infatti, la faglietta di giorni, e qual è la faglietta che mi hai detto già? Non c'hai il coso, sa. Quello gli date voi, quello gli date voi. Comunque se finisco la storia. Che senso? Antimi, la memoria un po'. Già regala. Cosa? Ragatte. sarà un baracchino. Io con che cosa sto uscendo, tu che sei un grosso intenditore. Con la mala, confermi. Sbagliato. Tende sempre a indovinare, sì, è il Galaxy adesso. Ah, l'hanno usato stasera. Dunque, 1-0 per Capri 2. Un pari due avanti. Tanto lei... Galaxy. Cioè, con il zuppo fa bagnato. Tu il Galaxy, non il Galaxy. Già, c'ho il Galaxy e il Midland. Comunque, 1-0 per te, Gianni Capri 2, eh. Gianni W0. Però si vede oggi proprio non riesce a azzeccare niente, o è perché ha sonno, oppure alla fin fine non se ne intende per niente di apparecchiature. È vero Antonio, infatti che tu entri non ti azzeccavo mai che di tu. Oh Dio mio. E vabbè, comunque capite me a trucchi apparati, come fai a capire quello che... Quindi ha sempre la stessa modulazione, quindi è difficile. E quello c'è, vero, ma ho sentito sottofondo un camionista cagliarità, non sbaglio? Non lo so, ma sento l'amico di Cagliari, se ci sei. Se non fosse era Giovanni di Osiro, va bene comunque, andrà bene, andrà bene, grande, si scherza, oi oi. Siamo vicini al Natale, se Dio vuole. Trovate coglioni. Il mare ha trovato i coglioni. Ma anche su un vino per fare, guarda, se non mi riprendo altro non mi prendo più, anzi mi ha lasciato... Dice che ci sono le scuole in crisi, questa riforma della scuola, non ho capito bene già, dice che stanno dicendo tutti quanti quelli delle scuole. Ma veramente c'è anche questa storia? Sì. Dio mio, e allora dovete spendere i soldi? Gianni, ma bello questa storia. Capi? Sicuramente c'è qualche problema di nuovo col microfono, è possibile? Può darsi, dai. Perché comunque a parte gli scherzi c'è un casino nelle scuole, senza, vabbè, questa cosa la sto scassando io, ma un bel casino. Lo so già, dunque oggi non ci pensiamo, domani un altro giorno, va a fanculo. E te Gianni, si è tirato. No, ma stava modulando pure, a volte mi capita, che prende un po' di colpi, dai, si blocca la modulazione. Non so se vuole entrare qualcheduno, lasciamo un attimo di bianco e vediamo un po', dai. Yeah. Benissimo, vuole entrare. E prendi tu Antonio. E niente, dai, già, anche oggi è stata abbastanza divertente, cosa ne pensi già? Sì, certo. Sto passando in compagnia e fare qualche battuta, sperando che non si sia offeso Gianni, stavo scherzando già. No, non ti preoccupare Gianni, già stanno scherzi. No, sicuramente ha avuto qualche problema con l'apparato, col microfono, sicuramente il microfono. O sta cambiando l'apparato. Può darsi, sicuramente ti vuole mettere alla prova a vedere se riesce ad azzeccarlo. Ah. Già rientrerà lui. Comunque Antonio, sì, va meglio, abbiamo detto, perché ci darà tutto, io farò qualche domenica anche il periodo di Natale, così. Infatti con la scusa, se non ci sono problemi si farà il 6, giustamente che domenica, ma non dovrebbe essere lavorativo da parte tua. No, non penso. Grobbe, se ci sei, quando puoi fai quella roba là? Ma non ho chi se ci sei. Non ho capito cos'è quella cosa là, ma se mi dai 5 minuti la faccio anche adesso. No, per fugli. Sì, no. Quello che ho detto faccio, farò, e non c'è problema. Vabbè, vabbè. Bene, va bene. Catena di montaggio si sta muovendo. Lasciamo un attimo di bianco a vedere se Capri entra, ma sicuramente è successo qualcosa. Che tapparati già ne ha, se è successo qualcosa uno ne attaccherà un altro. È quello, ma vedo che il silenzio è abbastanza prolungato. Sarei cazzato, detto così. Ripeto, stavamo un altro, un colpo, ta, sei andato via, ma speriamo non sia successo niente di grave, dai. E perché, già, la differenza fra un CB e un radioamatore, che realmente quello che è stato fatto un po' di tempo fa dall'associazione, egregiamente, dall'associazione Aerei di Sassari. Era comunque un qualcosa che non coinvolgeva sicuramente le persone, perché per una questione logica, o meglio burocratica, perché chi ha il radio, cioè se non sei radioamatore non puoi modulare in frequenza radioamatoriale, al contrario chiunque gli puoi far fare una prova di modulazione comunque nelle bande CB, dunque può sicuramente parlare sulla 27. Quindi non era coinvolgente. Io ho visto un banchetto di persone che stavano modulando su bande radioamatoriali e non ho capito quale sia stato il coinvolgimento della popolazione, cioè erano lì con un tavolino, no, questo non è, vuol dire essere, cioè non vuole essere una critica, però era fine a se stesso, capito? Ma forse era una cosa più loro che coinvolgere le persone, dai. Una cosa più loro, era proprio un contest che stavano facendo. Ma non ne capisco il senso nel momento in cui viene fatto dalla strada. Vabbè. Quando lo sarò, o quando mi metterò nella condizione di poter affiancare determinate persone, mi saprò dire. Ma senta. Ma infatti mi sento, del giorno mi sento una persona molto diversa, se finalmente davvero evito di frequentare certe persone. Ti ho realizzato. Ma molto, mi sento un uomo libero, guarda, un uomo nuovo. Vabbè, ma forse il suo personale già lo è, dai. Vabbè, non è che una grande soddisfazione. Ci vedo che sta friggendo. Sono mandicante, sì. Era la scarpetta che stavo facendo uno sfrigoglio strano. Ma niente di che. Credo che determinate cose debbano unire le persone, non dividerle. Nel momento in cui una persona si sente superiore a un altro, già sta sbagliando, ma se poi si sente superiore perché solo perché ha preso una patente che poi è alla portata di tutti quelli che decidono di prendersela, si mettono nella condizione di mettere il culo sulla sedia, studiare per un mese seriamente, andare lì e dare un esame, punto. Un esame che poi non è che sia così difficile, assolutamente. Diventa difficile perché per assurdo non c'è un programma d'esame, quella è una cosa di cui davvero è assurdo che avvenga, perché qualsiasi concorso ministeriale, non ultimo questo, ha un programma, questo è l'unico che non ce l'ha, è molto generico, quindi Beh, se tu hai un programma studi su quello che praticamente c'è nel programma, ma se tu non hai un programma studi una cosa e poi te ne mettono un'altra, è normale che non ce la fai. Per assurdo, è molto più limitativo e limitante avere la patente, perché è come se di colpo tu hai una macchina con cui puoi fare lo strapotente, puoi fare lo stravagante, e quindi lì sì, che si vede la vera educazione. Altro è se la macchina ti mettono la targa, cosa che prima non avevi, e quando c'è la targa ti devi comportare per forza bene, e questo non è che ti faccia più nobile, anzi, perché ti devi comportare bene per forza, non per animo e per educazione tua personale. Questo alcune persone non hanno capito e vabbè, cosa vuoi ti dica. Però credimi, non mi sento diverso, anzi io chiederei a te di farmelo notare nel momento in cui mi dovessi comportare in modo diverso. No, ma no, ancora forse non sei entrato nell'ultima, magari puoi diventare anche tu così. Così come? Guarda, io credo che ci siano delle persone semplicissime che come frequentano le alte frequenze, scendono qua e sono la stessa persona. Quindi ci sono altre persone che sono maleducate sia su che giù, quindi non è quello, ti ripeto, che fa un vero radioamatore o amatore della radio, che secondo me è molto più importante, perché ci sono qua persone patentate, cioè non patentate, che meritano molto più di persone che hanno la patente. Vabbè, c'è poco come sicuro, ma comunque questo di meritare, questa è proprio una scelta che a me piace stare qui, uno ha i suoi modi di pensare, non è che per carità, rispetto tutti, però mi piace più qua, verità. Un po' seriosa la sua frequenza, un po' seriosa, da fiare, di niente, dalla volta che ho sentito quello lì, anche sto un controllo, che questo qua mi ha risposto, non sei un CD, un D. controlli te li diamo noi senza che tu ci richieda. Sì, ma infatti, vabbè, seriosa, nel senso che sicuramente ci sono, c'è un modo di relazionarsi sicuramente diverso, ma perché? Perché stai, e soprattutto hai una responsabilità diversa, perché stai trattando con apparati e con frequenze che possono essere pericolose se gestite male. Però la serietà e l'educazione della persona si deve vedere da tutte le parti, non è che a seconda di dove sei cambi, capito? Quello è una cosa abbastanza ingiusta. Però la vera libertà la si ha sulla 27, questo non v'è assolutamente dubbio, perché è alla portata di tutti. Purtroppo un po' come la società, incontri persone in gamma e poi incontri persone un po' meno, ma educati di tutto. Ed è bella proprio perché è eterogenea e varia la cosa. Però vabbè, come nella vita normale, no? Assolutamente, però ti ripeto, è alla portata di tutti avere una patente, di quelli che hanno intenzione di prendersela, basta un po' di studio ed è facile averla. Antone, via. Se la riprenda, tu cosa ne pensi? Oh, io purtroppo ancora non ho avuto la fortuna di avere un ricevitore, sto sempre cercando, non riesco a trovarlo per vedere un po' com'è quel mondo lì, ecco. Cappa grappa, vabbè, questo è uno scanner. Alta, uno? Scanner. Ho capito, no, uno scanner. Scanner. Ah, vabbè, facciamo senza il servitore, ho fatto una ricerca su internet, però, ancora non sono riuscito a trovarne uno, qua, per carità. E quelli base bruciano un bel. Ma io guarda, 6 mesi fa, sì, ti ho fatto la domanda, ho fatto una ricerca, c'era uno, ma venivano 250, 300 euro, anche di ultime marche. Poi sono andato a rivedere, erano stati venduti. E bisogna fare una bella ricerca, o contattare, diciamo, persone che sono in mezzo nella di amatori e, diciamo, c'è più possibilità di riuscire a trovare qualcosa, ecco. Andiamo un po', K2, ci si. Ma cosa ti è successo? Che ti abbiamo chiamato un bel volte e ci siamo anche preoccupati. Ah, ecco. Pensato che ti fossi offeso, perché ti ho detto che la scuola stava andando male, stava licenziando tutti quelli di scuola, busta. Oh, io so fare tutto, io già so lavorare dappertutto, ma prima di non mi ne manca, non so fare la città solo. Non ho problemi. Magari tu no, ma trovare lavoro è un casino, vero? Io stavo scherzando comunque. Trovare lavoro già, a parte gli scherzi, è un casino. Sa mai, già. Quello c'è il vero. Che lavori sai fare, già? Presa, da tutte le parti, camion, tutto, e capito, non mi dico di sbaglio. Che impresa sei stato? Come? Anche l'impresa io. Ma per la meccanica si guida. Certamente. Taglio va bene, dai. Era tutte le cose che siamo nei muletto, quelle sono cose lì. Mulet posso guidare anch'io. Cioè sono il pastore che si attaccano diverse cose, capito? Ho lavorato picco e pala, molto molto picco, dopo già. Sono testato al massimo. Tutto. Avanti. Oh, Antonio. Via, comunque, ribuonasera già, ripeto, eravamo preoccupati, non rispondevi, comunque, ebbene, manchino un po' di lavori li ho fatti, ancora dovrò mangiare pane, e cosa vuoi fare? La prendiamo come viene alla fine, dai, pascescia. Io, oltre quello che ho fatto l'assicuratore, poi ho lavorato come falegname a fare i parchi nelle ville, qualche cosa così, e poi ho fatto l'autista sempre. Vabbè, ne ho affrontato anch'io, ho lavorato in tacementi a Cuneo, poi ho fatto il barista, il cameriere, il panettiere di uno scampi liberi, mobiliere per 20 anni, traslocchi, e poi da ci è uscito altro. Ah, e 2 anni in caseificio, va, ne ho girato anch'io. Ah, e adesso, ultimamente, manovale il tonacchino. Guarda, e poi tu già hai girato parito. adesso affrontiamo, diciamo, il lavoro della presentazione per la 27, anche quello lì anche una bella esperienza da affrontare. Anche quello lì in questo caso è un lavoro di squadra, ed è sempre un lavoro. Beh, certo. Bisogna c'è un po' di roba per far vedere, poi ci vorrebbe qualche apparato vecchio e qualche nuovo anche, nuova generazione. E bisognerebbe dirlo a sempre il produttore se si vuole partecipare. Vedi, giusto, ottima idea, io non ce l'ho il numero di telefono, o forse, no, forse ce l'ho, anzi, non forse, ce l'ho, perché aveva acquistato il BV131, sì, me l'avevo segnato nel telefono, domani mattina lo sto chiamando io, per lui ci penso io, fatta. Bisogna dire anche di Gianluca e Gianpaolo, così almeno, ti offro di nessuno, dai. No, Gianluca lo sa, Gianpaolo suona molto senza sentirlo. Sì, facciamo così, dai, tu che devi contattare a Gigi Vulcano e io domani mattina sto chiamando a come si chiama? A BV131 l'avevo segnato. Sì, domani mattina ci penso io per l'amico di Porto Torres. Sandro Tigre, sì, per domani ci penso io a lui, poi ti faccio sapere in radio domani. Io tanto domani esco alle 7:30, se volete accendere così mi fate anche compagnia tornando a casa. E allora, se ci sono, lo tengo sul canale 5, così ti accompagno sino a casa, là non c'è problema. Ma prima vado a accendere, ma c'è sempre gente parlando. Poi vi farò anche per entrare, non vedo nessuno. Vabbè, dai, non c'è problema, te la faccio io domani mattina compagnia. Ma domani mattina, domani sera, dai, già l'accendo, tranquillo. Se non ho niente da fare, io alle 7:30 è acceso. Appagato. C'è anche l'ascolto, sono il tigre, non lo so. Non credo verso quest'ora, credo sono le 11, vero? Sono al buio io, sono sdraiato nel letto. Perché guardo il telefonino. A Napoli, 11:15, là sì, 11:15. E lui verso, bene o male quando modulava a 10:30 portava il suo cane a fare i suoi bisogni e poi chiudeva, e adesso già sicuramente è abbastanza tardi, non c'è l'ascolto. Ha pagato, vabbè, comunque ci fa sempre piacere se c'è più. Perfetto, la prima cosa che faccio, va bene, domani cosa devo fare? Portare mia figlia a scuola, poi fare delle documentazioni in comune. Comunque 10:30, 11 è già segnato, ci penso io. Va bene, non c'è di che. Avanti, Grodino. Aspetta un attimino, rimango ancora X che sto guardando una cosa su cosa, sui B. Ah, va bella. Come? Non riesco più a entrare su eBay dove ci sono gli apparati, lo sai. Perché? Metto, come mettevo sempre, elettronica e poi clip e mi dà altre cose, non mi dà gli apparati. Poi se metto specificamente radio CB eccetera eccetera mi dà una pagina solo, ma non è l'eBay completo. Tu dove entri per entrare in eBay? Cercare apparati. No, vabbè, sta facendo un po' lì. Prendi Antonio. Ghiaccia anche Capri. Ah, è vero, Gianni. Qui è sottile, sono 11:15, no, ti saluto cordialmente, sono dopo la mossa in generale, anche quello di te, che sono già ora che dovrò essere di attivo la palestra. Saluto a tutti e ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ciao, già. Ci sentiamo, buonanotte. Via, ciao già, buonanotte, mi raccomando per domenica. 10:30 abbiamo stabilito. Dimmi tu se va bene come orario. Per me va bene che giorno, tanto io la domenica mi sto presto. E anche io ogni giorno, anche se sono fermo, sono abituato alle 5:15, io sono già in piedi. Tra una cosa e l'altra, prendo un caffettino, ascolto guardo un po' il telegiornale, mamma mia, per carità, scampi libri, un po' di televisione, poi sveglio mia figlia a 7.30, preparo, la lavo, colazione e poi la porto a scuola. Dunque già la mattina è già impegnata. E anche io più o meno faccio la stessa cosa, preparo le colazioni, prendo Marco, l'accompagno alla fermata del tram, lui prende il tram e vado da solo. E lui è sempre all'elementare, giusto? Marco, ma che è in prima media? Ah, prima media. Ah, vabbè, giustamente all'età di mia figlia, 10 anni, giusto? Sì, 11 ne ha Marco. Vabbè, 11, mia figlia gli fa l'11 a gennaio. Solo che gli hanno fatto fare un anno in più di asilo, perché secondo loro non era pronta, dunque a quest'ora sarebbe stata, per dire, in prima media, sì, vabbè, non c'è problema per quello. Sì, facciamo così, 10:30, dai, ci incontriamo lì al quadrato e speriamo che faccia bel tempo, comunque già ci rintaniamo da qualche parte un'oretta, già non guasta, dai, e vediamo, porto la documentazione che ho. Giustamente ve la faccio vedere e ci organizziamo, dai, perfetto, facciamo così. Cappagatto, e così definiamo tutta la situazione, no? Chi può mettere gli apparati, chi... Noi sappiamo già più o meno, cioè, come muoverci, là. Esatto, sì, poi abbiamo tutto il tempo sino a domenica di contattare a tutti, così vediamo un po' se è possibile incontrarci domenica e di... Dai, definire tutta la situazione, facciamo così, dovrebbe essere la cosa migliore. Andava. I due, ce n'è andato, è rimasto. Pronto. Luca, ci sei? In via sono andato. Noi siamo rimasti su questo. Non ti preoccupare, dai, già, piano piano già. Si muoverà e giustamente anche il 10:15, sicuramente la maggior parte vanno a lavorare, dunque hanno bisogno di riposo. E non scherzo, perché questo periodo, per dire, oggi per me è stata una giornataccia, stamattina la prossima mattina solo, ma ho lavorato però. Cioè, per domani lavori, no? Anche domani sei a riposo. Almeno. Domani lavori, sì. Ho lavorato anche oggi, però sono di mattina, no? Io c'ho riposo la sera e poi domani lavoro, sì. Scusami un attimo, mi si è bloccato il mangianastri. Va. Nara 2. Sì, stavo pensando tu di farlo verso l'Epifania, perché anche perché... non ci sono a Natale, la domenica molte volte mi fanno lavorare, capito? Quindi periodo di Natale ci sono delle consegne, se non lavori anche la domenica non ce la facciamo. Fate bene. Diciamo coincidere con la giornata che fanno i vigili del fuoco per Santa Barbara. Va bene così. Ma più che bene così. Antoine. Eccomi, no, secondo me stiamo ascoltando un vecchio nastro del 96 quando lavoravo in discoteca. Riesci a vedere chi è? Mr. Enix, e non capisco perché si è bloccato, lo stavo controllando. Allora, quando si blocca il nastro lo devi praticamente prendere fra le due mani e muovere un po'. Il nastro si stava mezzo imballando. Beh, ancora c'è qualche cassettina, fa piacere vederlo in funzione. La verità, se lo inseriamo, vediamo un po', guarda tutto il casino e il rumore che deve fare. Aspetta, play. Allora, che sta andando, sta compagnia. Vecchia musica dell'epoca, là, ti dà un po' di bei ricordi. Ce l'ho anche io fatti da me. Poi siamo fatti direttamente in discoteca, mentre il DJ mette la musica, lì c'erano l'impianto con la registrazione, si usavano le cassette, ecco. Che marca è questa qua, bella? Riesci a vedere un po'. Mi sono andato di nuovo mangiando, maledizione, della Sony, da 60 minuti. Dove piegala appena appena con le due mani, la fai flettere. Quello che se stava mangiando il nastro. Sì, ma quello forse dipende dal mangianastri. Sempre funzionato bene, è difettosa la cassettina, già ai suoi anni, devo controllare, porca accidente, adesso devo riavvolgerlo di nuovo. Una pena. Il bello è che adesso non ce l'ho, ho invitato a prendere i CD, dunque non c'è bisogno di pena, di matita per riavvolgerlo, te lo ricordi? Voglia, ho messo anche su internet l'altro giorno, chi si ricorda di come si avvolgeva il nastro? E i vecchi nostalgici, e quello già è vero, e sono col dito piano piano. Con le due dita, pizzicavi e via, lo facevi girare. Io ne ho visto un bel po' di cassette da a un euro dal mercato delle pulci, e c'è una bella passata, e anche da qualcosa anche da collezione, perché ormai anche le cassette hanno fatto il loro tempo, stanno sparendo giustamente, chi fa collezione le può trovare lì a un euro. Guardi, tu hai avuto anche data definizione, quelle che registrare i CD, facevi la CD o la cassetta. A me sarebbe piaciuto avere quella bobina, quelli enormi, che si usavano gli studi di registrazione, che di regola, la maggior parte vedevo quelli della Sony, erano veramente mastodontici, molto molto belli. Nella radio privata si usavano bene qui. Esatto, con quelli registravano la loro trasmissione pure, avevano la musica direttamente in pellicola, no, sono veramente delle belle cose quelle, la collezione giustamente, possibilmente funzionanti. Andavano se ne andavano via dalla radio, la domenica specialmente. Capito Giano? La domenica specialmente, mandavano il programma registrato e se ne andavano. Sì, perché erano abbastanza grandi, dunque ce n'erano di ore lì, in quell'enorme bobina. Sì, a voi. Io conosco una persona che ha una collezione di queste cose, che scambia, fa... conoscevo, adesso non lo sto più frequentando, ma nel suo tempo mi aveva detto che è andato anche a Cagliari a prendersene uno. E di questi, diciamo, riproduttori a pellicola? Invece nel 91, all'epoca c'era la possibilità, diciamo, di scaricare il cartone, il materiale, andando alla Fiera di Usilo, e c'era un po' di tutto lì. E sono riuscito a trovare una vecchia bobina, però in 16 mm, pellicola, visiva della Democrazia Cristiana, comunque un convinto di un partito, della Democrazia Cristiana in bianco e nero, la famosa pizza col contenitore in alluminio. È perfettamente integra, giustamente ci vuole il proiettore, e ce l'ho conservato da una parte, nel 1900, se non sbaglio, 72. C'è scritto Istituto Luce ed era buttata lì in mezzo alla mondezza. Ce ne trovo, guarda, gli intervenire trovano meglio, infatti questi mercati dei pulci, questo Portobello, sempre nei turbini lì. Se ne sei accorta, beh, giustamente c'è lavoro lì, chissà quante cose gli capita in mano. Con la scusa le provano, funzionano, le vendono. Infatti, ma poi vanno anche a roba rotta lì, una cazzo di pulci. E lo so, già stanno bene, fortunati, in più si vogliono fare soldi anche da lì. Ma io ho portato roba troppo buona, invece non me l'ha saputo valutare e me l'ho riportata via. E lo sai cos'è, che giustamente sempre ha imparato cosa vuole la gente e a quanto la vuole, dunque se porti, diciamo, degli oggetti abbastanza integri, in perfetto stato e anche recenti, giustamente dovrà pagarti molto di più e giustamente lo dovrà vendere a un certo prezzo. Sicuramente ha visto un po' come la situazione, dunque si accorge quando l'oggetto può essere venduto oppure no, se è favorevole sia per te che per lui. Fantone, da, io devo chiudere perché c'è tardi. Saluti cordialmente anche Antonio Globi, figlio che vi sono in ascolto. Vi auguro buonanotte, ciao ciao a tutti. Via, ciao già, ti auguro buonanotte, anch'io chiudo. Va bene, ci aggiorniamo domani, dai. Buon proseguimento di serata a tutti. Sì, io, no. Ciao ciao. Ciao, buonanotte. Ciao Gianni. Buon 140. 34 quando lo farai, con quel RT ci sentiamo le prossime. Ciao, è Claudio che ho sentito fare capolino, dai. Buon proseguimento e un saluto a tutti quelli che sono in ascolto.